Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Stanotte ho fatto un sogno assurdo. Una ragazza viene trasformata in un cigno. Solo l'amore può spezzare l'incantesimo, ma il principe si invaghisce della ragazza sbagliata. E lei si uccide. Mi ha promesso un ruolo importante quest'anno. Sarebbe ora. Nella compagnia sei quella che si applica di più. La nostra nuova regina, la straordinaria Nina Sayers. Quando ti guardo vedo solo il cigno bianco. Bellissima, spaventata, fragile. Ma il cigno nero? Posso fare anche quello. Voglio vedere la passione. Seduci, forza, avanti, più dritta. Il Cigno Nero con Natalie Portman è il bellissimo film del 2010 ambientato nel mondo della danza, che vale all'attrice l'Oscar come miglior protagonista femminile. La trama è avvincente e trae spunto dal fatto che la protagonista del Lago dei Cigni di Tchaikovsky interpreta sia il ruolo dell'innocente Odette, il cigno bianco, sia quello della sensuale Odile, il cigno nero. Questo impone all'interprete uno sdoppiamento di personalità non indifferente, che nel mondo della danza è molto temuto dalle ballerine perché è ritenuto difficilissimo. Nel film la Portman interpreta magistralmente la mutazione di una giovane ballerina, la quale viene giudicata inizialmente troppo ingenua per interpretare il cigno nero. Questo scatena una terribile rivalità con un'altra interprete, più adatta per quel ruolo, Lily, e trascina la giovane Nina in un'ossessione distruttiva che le fa perdere la percezione di ciò che è reale e di ciò che non lo è. Ridotta alla pazzia, Nina decide di uccidere Lily, ma in realtà scopre di avere colpito a morte se stessa. Il concetto dell'eterna contrapposizione tra bene e male, tra bianco e nero, è meravigliosamente affrontato dal grande giornalista e scrittore Tiziano Terzani. Questo è un grande concetto che la cultura occidentale ha dimenticato, ma che aveva in sé, che tutto è uno. Questa idea della dicotomia è profondamente sbagliata e niente meglio di un grande simbolo asiatico, in questo caso cinese, questa ruota con lo yin e lo yang, rappresenta come la vita, l'universo, è l'armonia degli opposti, l'armonia degli opposti. Perché non c'è mare, non c'è acqua senza fuoco, non c'è femminile senza maschile, non c'è notte senza giorno, non c'è sole senza luna, non c'è bene senza male. È proprio a questa contrapposizione che sta pensando un uomo in questo momento. A giudicare dalla sua età, a 83 anni, lo si potrebbe definire senza ombra di dubbio un vecchio. Ma chi lo vedesse, specialmente in questo preciso momento, a tutto penserebbe meno che a quella parola. Le sue caratteristiche fisiche, il suo modo di muoversi, la sua tempra, sono molto più simili a quelle di un trentenne che non a quelle di una persona di età tanto avanzata. L'uomo sta pensando alla sua vita trascorsa, a tutti quegli anni che può contarsi alle spalle, a tutti gli avvenimenti che hanno caratterizzato la sua esistenza. In ogni occasione, un determinato fatto ne ha scatenato un altro opposto. Da quello che pareva un male, egli ha tratto linfa fertile per volgere la situazione a suo favore. In lui, l'essenza vitale, la voglia di sperimentare, di sopravvivere, sono state più forti delle difficoltà. E lui ha potuto batterle con energia. Si va ripetendo questo per darsi coraggio, perché certo in questo momento non si trova in una situazione molto facile, anzi, tutti noi ci sentiremmo perduti in un frangente simile. Quest'uomo si trova infatti appeso a una trave portante del soffitto di una casa che sta bruciando. Oh, Un uomo è appeso per le gambe e le braccia a una trave del soffitto. Già di per sé è un'impresa da pochi. Se a questo si aggiunge che al piano sottostante, in quelli ancora più giù, è in corso un terribile incendio che rischia di far crollare tutto, la situazione si fa ancora più ingarbugliata e ricorda più la trama di qualche film d'azione tipo 007, piuttosto che la vita reale. Soprattutto perché la persona in questione è un uomo di 83 anni. C'è da faticare a crederci. Eppure questo sta accadendo davvero. Ci troviamo al 939 della 8th Avenue di New York. È il gennaio del 1966 e il nostro uomo appeso alla trave portante del palazzo in fiamme ha un nome famoso in tutto il mondo. Joseph Pilates. Joseph Pilates. La sua forma smagliante, i suoi muscoli d'acciaio, il suo incredibile equilibrio psicofisico lo stanno salvando da morte sicura. È intervenuto allo scatenarsi di un incendio inspiegabile che è partito da qualche piano al di sotto della sua palestra, dove lavora da anni, e ha cercato di salvare il salvabile, ma si è trovato poi intrappolato senza possibilità di fuga. Un'imprudenza imperdonabile, certo, ma molto in linea con quello che sono il suo stile di vita e la sua personalità fin da bambino. Mönchengladbach è una graziosa cittadina della Westfalia situata a metà tra Düsseldorf e il confine olandese, che diverrà tristemente nota nel periodo della Seconda Guerra Mondiale per aver dato i natali a Joseph Goebbels, ministro della propaganda del partito nazista e braccio destro di Hitler. Ma per il momento siamo alla fine del 1800. È un paesotto tranquillo, dove la vita scorre piacevolmente e gli abitanti vedono di buon occhio le comunità straniere che vi si stabiliscono. Fra gli altri, vi è un certo numero di greci che sono arrivati anni addietro e che nella migliore tradizione della loro terra si occupano di sport, ginnastica, movimento, di quello che più genericamente oggi chiameremmo fitness. La famiglia Pilatu possiede una piccola palestra, dove il padre, noto ginnasta, allena giovani promesse dello sport tedesco. La madre è invece una naturopata. Purtroppo i due non sono stati fortunati. Proprio a loro, tanto attenti al fisico e alla salute, è nato un figlio malaticcio, Joseph. Lo ricorda Michael King, esperto ginnasta e proprietario di una catena di palestre negli Stati Uniti, un grande ammiratore di Joseph Pilates. Joseph soffriva di asma, era rachitico e spesso lo coglievano le febbri reumatiche. La madre lo curava come poteva, ma era gracilino, faceva perfino un po' pena. Suo padre era un vero atleta. Un fisico perfetto, molto forte. E Joseph avrebbe tanto voluto essere come lui. È proprio vero che la mente umana può tutto solo se lo vuole. E Joseph non ci sta a sentirsi un malatino, uno che deve stare a guardare gli altri vivere mentre lui deve riguardarsi, stare attento a non prendere freddo, a non sudare, a misurarsi sempre la febbre. No, non è vita. Perciò quando ha solo 6 o 7 anni, decide che sconfiggerà tutte le sue malattie. L'opportunità ce l'ha, la palestra del padre, i suoi consigli, i macchinari sempre a disposizione. E anche sua madre può aiutarlo con le cure naturali che dispensa a tutta la città. La sua decisione si trasforma in una sana ossessione. La ginnastica e il bodybuilding diventano i suoi compagni di giochi. E poi impara a sciare, uno sport che gli piace moltissimo e che gli riesce particolarmente bene. Grazie a sua madre conosce anche un'altra disciplina alla quale si rivolgerà per tutta la vita, lo yoga. La sola cosa che in questo periodo lo fa veramente soffrire sono gli sberleffi dei suoi compagni della scuola elementare. Il padre ha trasformato il nome di famiglia in Pilates, perché è più facile da pronunciare per i tedeschi, e i suoi amici lo chiamano Ponzio Pilato, assassino di Cristo. Passò un po' di tempo prima che mi decidessi a leggere la storia di Ponzio Pilato. Potevo avere 11 o 12 anni. E così finalmente scoprì che in realtà non era stato affatto lui ad uccidere Cristo. I miei compagni mi avevano fatto soffrire inutilmente. Pensai che erano ignoranti, che non sapevano nemmeno com'era la storia della vita di Gesù. Ma poi ci ripensai. Ero io l'ignorante, che non lo conoscevo. Fu allora che iniziai a studiare sul serio. Facevo i miei esercizi di ginnastica e intanto leggevo. Mentre Joseph Pilates è intento ad allenarsi con grande impegno, come fa ogni pomeriggio nella palestra di suo padre, un signore lo sta osservando. Sono anni che frequenta quella palestra ed è sinceramente ammirato da quel ragazzino adolescente. Non sembra nemmeno più il piccolo Joe che solo 5 o 6 anni prima si sedeva su una seggiolina a osservare la gente che si allenava, tutto avvolto dalle coperte, macilento, gracilino, con la faccetta smunta e malata. Ora è un giovinetto di 14 anni dal fisico ben sviluppato, muscoloso ed armonico, il ritratto della salute. Quel signore se ne intende. È un valente pittore e un abile disegnatore e lavora alla realizzazione di una grande enciclopedia. È stato incaricato di disegnare le tavole anatomiche del corpo umano e si convince che proprio Joseph, che lui conosce da anni, che ha visto crescere e trasformarsi giorno dopo giorno, possa essere il modello giusto per il lavoro che deve eseguire. L'attenzione e la costanza con la quale il giovane ha scolpito i suoi muscoli con l'aiuto del padre in anni di allenamento hanno trasformato il suo fisico in una lezione vivente di anatomia, degna di comparire sulle pagine eterne di una enciclopedia. Joseph Pilates continua ad allenarsi e a sperimentare su se stesso una serie di esercizi e tecniche particolari, mettendo a punto addirittura degli attrezzi da lui inventati. Crescendo, acquista sempre più coscienza di se stesso, delle sue potenzialità, appassionandosi in particolare alla boxe. Mentre si allena sul ring e si guarda riflesso nell'enorme specchio che si trova sulla parete di fronte, quasi stenta a riconoscersi. Lo ha trasformato l'aver creduto nel potere terapeutico del movimento e dell'allenamento fisico, la passione a cui decide di dedicare tutta la sua vita. Joseph è molto bravo come pugile, tanto che lo ingaggiano per una serie di incontri in Inghilterra. Sta pensando fra sé e sé cosa sia meglio per lui e la sua carriera. Infine decide di accettare. Londra lo aspetta. È il 1912, quando approda nella fantastica capitale britannica, dove le opportunità di impiego non mancano. È un favoloso ginnasta e lo vogliono perfino al circo, dove fa il trapezista con grande successo. Un giorno riceve una lettera che lo sorprende parecchio. Il Dipartimento di Polizia di Scotland Yard ha intenzione di avviare un corso di autodifesa per i suoi agenti e avremmo piacere che fosse lei, signor Joseph Pilates, ad occuparsene. Le sue qualità di ginnasta, pugile, trapezista ci fanno pensare che la completezza della sua preparazione possa trasmettersi efficacemente alle nostre reclute. È un impegno importante e Joseph si sente molto orgoglioso. Lui che era malaticcio, asmatico, sofferente, si è trasformato in un atleta. Questo è il grande potere dell'allenamento mirato, che egli intende sviluppare ancor meglio per aiutare quante più persone possibile. Nel frattempo, accetta l'incarico di Scotland Yard, un lavoro di grande prestigio. Ma dietro l'angolo è in agguato uno degli eventi più devastanti della storia dell'uomo. Scoppia infatti la Prima Guerra Mondiale. Il conflitto appena iniziato vede l'Inghilterra schierata contro la Germania. Pilates è tedesco, quindi è un nemico. Per questo, con molti altri suoi connazionali che vivono in terra britannica, viene internato nel campo Lancaster e successivamente sull'isola di Man. Tra le persone che subiscono questo arresto da parte delle autorità inglesi, le reazioni sono le più disparate. C'è chi comprende la posizione del paese, in fondo loro sono dei potenziali nemici. Altri non accettano affatto questa imposizione. Gli inglesi avrebbero almeno potuto rispedirli nel loro paese. C'è chi si ribella, chi si dispera. Ma c'è invece chi la vede come un'opportunità. Per Joseph Pilates, la prigionia si rivela ben presto fonte di grande ispirazione. Nel campo di Lancaster non si stava male. Avevo la possibilità di allenarmi parecchio. E poi c'erano tante persone che mi chiedevano consiglio su come rimanere in forma durante quel periodo di forzata reclusione. Ma poi, quando ci trasferirono sull'isola di Man, cambiò tutto. Fu lì che trassi la mia ispirazione per quello che diventò il mio metodo, Contrology. La realtà che Pilates trova sull'isola di Man è completamente diversa da quella che ha lasciato nel campo di Lancaster. L'isola è una sorta di grande ospedale, affollata di reduci dalle battaglie, menomati dalle ferite e dalle malattie, immobilizzati da tempo. Per non parlare dei mutilati. Joseph si guarda in giro attonito, ovunque vede persone sofferenti, depresse, debilitate. E lui non può che tornare indietro nel tempo e rivedere un bambinetto gracile e malaticcio, sofferente di asma e di febbri reumatiche, sempre avvolto in una coperta che si vede passare la vita davanti. In quel momento sente che quella gente ha bisogno di lui, che la sua esperienza può veramente fare tanto per quei giovani, quei feriti, quei malati che nessuno cura e ai quali nessuno dà più alcun credito. Le sue conoscenze sono immense. Joseph si mette subito al lavoro. chiede di poter utilizzare alcuni letti rotti che sono accatastati in un magazzino. Ne trae le molle, le barre meglio conservate e, in men che non si dica, costruisce una serie di attrezzi. Nel giro di poche settimane l'ospedale di Mann diventa un'immensa palestra, come racconta Ashley Ludman, insegnante di yoga ed esperta di Pilates. Pilates lavora nei campi di internamento, direttamente dai letti di ospedale. Usa diversi attrezzi che oppongano resistenza per fare esercizi specifici, impiegando le cinghie dei letti, le molle, le lenzuola stesse. Con sua grande soddisfazione, i malati iniziano subito a stare meglio, sia nel fisico che nel morale. Al termine del conflitto mondiale, Joseph rientra in patria. La palestra di suo padre lo attende. Qui il giovane ginnasta definisce meglio la sua tecnica, la contrology, che lui chiama così in quanto parte dal presupposto che qualsiasi movimento vada fatto tenendo costantemente sotto controllo la respirazione. Le sue teorie hanno un discreto successo, e poi lui è stato l'allenatore dei poliziotti di Scotland Yard. Ma non sempre il successo è da considerarsi un fatto positivo. Il governo tedesco lo invita ad allenare il nascente esercito della Nuova Germania. È un'uggiosa serata del 1925. A Mönchengladbach gli inverni sono lunghi, il clima è davvero pessimo. Joseph è da solo nella sua palestra. Sta riflettendo sull'incarico che il suo governo gli ha appena conferito. Allenare l'esercito del proprio paese potrebbe essere considerato un grande onore. Ma lui non la pensa affatto così. Cavalcando lo scontento e l'orgoglio ferito del popolo tedesco a causa della sconfitta della Prima Guerra Mondiale e della grave crisi economica che affligge la Repubblica di Weimar, Adolf Hitler si sta affacciando sulla scena politica tedesca. Denn als unsere Partei gerade sieben Mann hoch war, brach sie schon zwei Grundsätze aus. Erstens, sie wollte eine wahrhaftige Weltanschauungspartei sein. Und zweitens, sie wollte daher kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland. Joseph non si interessa molto di queste cose. La politica non fa decisamente per lui. Ma quell'uomo non gli piace affatto. Decide all'istante di lasciare la Germania. Un piroscafo è già pronto per portarlo nel nuovo mondo, in quell'America che accoglie a braccia aperte gli emigranti di tutto il mondo. Joseph Pilates abbandona la follia che sta per scatenarsi sulla Germania. Il suo più grande desiderio è ora poter vedere al più presto la luce calda, accogliente, della torcia che tiene alta sulla baia di New York, la Statua della Libertà. I met a girl in East LA, in floral shorts, as sweet as May. She sang in eights and two barrio chords. We fell in love, but not in. Destini incrociati. Tre chilometri quadrati e mezzo di vegetazione spettacolare. Central Park è il meraviglioso polmone di Manhattan. Al suo interno si trovano diversi laghi artificiali, estesi sentieri, due piste da pattinaggio, parchi giochi per bambini, prati utilizzati per numerosi sport. Il parco è un'oasi per gli uccelli migratori ed è quindi popolare fra i bird watcher. La strada, lunga quasi 10 chilometri che circonda il parco, è frequentata da ciclisti, persone che fanno jogging e pattinatori a rotelle, specialmente nei fine settimana, quando è vietato il transito alle auto. Ogni estate si tengono rappresentazioni teatrali all'aperto nel Della Corte Theater, all'interno del parco. Fra gli altri eventi ospitati, il traguardo della Maratona di New York e la festa di mezza estate. Il 939 della 8th Avenue di Manhattan dista pochi minuti dal Central Park ed è per questo motivo che un giovane tedesco di origine greca che ama moltissimo fare jogging decide di stabilire la sua palestra in questo stabile. È Joseph Pilates, ginnasta di grande bravura, nonché boxeur e acrobata di circo. Ha lasciato la sua patria, la Germania, perché non condivide la politica del nascente partito nazista di Adolf Hitler e nel 1926 approda a Ellis Island, nella baia di New York, terra promessa di milioni di immigranti. Nella sua palestra Pilates insegna la Contrology, tecnica di ginnastica da lui inventata basata sul controllo della respirazione. Un insieme di esercizi ginnici, yoga e arti marziali che gli hanno permesso di guarire se stesso dal rachitismo e dalle febbri reumatiche quando era piccolo, nonché decine e decine di militari feriti e malati durante la recente Prima Guerra Mondiale. Nello stesso stabile, al 939, si trovano alcune scuole di danza. A Joseph capita spesso di incontrare frotte di ballerini e ballerine per le scale e anche di assistere a qualche lezione. È una fredda mattina di fine 1933. Joseph Pilates è andato come suo solito a fare jogging nel meraviglioso verde di Central Park e sta tornando nella sua palestra. Come d'abitudine, sta salendo le scale a due quando si trova di fronte un pianerottolo intasato. Al piano sotto al suo stanno evidentemente facendo un trasloco. Casse, valigie, ma soprattutto panche, attrezzi e specchi invadono il passaggio. In mezzo a persone che entrano ed escono concitate, un giovane dal volto particolarissimo impartisce ordini con voce suadente in una lingua che Pilates non fa fatica a riconoscere. È il russo. Il giovane, senza alcun dubbio un ballerino, si scusa con Joseph per l'inconveniente in un inglese quasi perfetto e allunga la mano lungilinea e curata presentandosi. Il suo nome è Georg Balanchine. Georg Balanchine. È appena arrivato dalla Russia e si muove come una libellula tra i pacchi, gli scatoloni e i suoi collaboratori che lo circondano come le api fanno con la regina. Si vede che è un personaggio carismatico, sicuramente un artista. Il suo volto esotico e il suo modo di fare trasportano chi lo osserva in un mondo molto lontano da lì. All'inizio del Novecento, San Pietroburgo è una città meravigliosa. Fondata dallo zar Pietro il Grande nel 1703, è chiamata la finestra sull'Occidente per la sua posizione strategica sul Mar Baltico. La corte di Nicola II Romanov, che sarà l'ultimo zar, è ricca e fastosa e ha reso la città un crocevia di cultura, arte e tradizioni. È qui, nel freddissimo inverno del 1904, che nasce Georgi Melitonovich Balanchivadze da una famiglia di origine georgiana tutta votata all'arte. Il padre è un musicista, la madre una ballerina, il fratello un compositore di canzoni popolari. Georgi Balanchivadze ha solo 9 anni quando la madre lo iscrive alla scuola imperiale del balletto. Lui non è che proprio ci muoia dietro, ballare gli piace ma non più di tanto. Ma sua madre insiste e lui alla fine accetta. Il caso vuole che il piccolo Georgi finisca nella classe di Pavel Gert, grandissimo ballerino del Bolshoi. Il maestro riconosce subito nel piccolo Balanchivadze quelle doti che differenziano un potenziale bravo ballerino da un danzatore geniale. Georgi ha la musica nel sangue, è leggero ma possente e soprattutto è caparbio. Se non riesce a fare qualcosa, si intestardisce e prova e riprova finché non ce la fa. Le sue doti musicali poi sono eccelse. Suona il piano, canta divinamente. Ma un fatto inaspettato cambia radicalmente lo scenario di San Pietroburgo. Товарищи красноармейцы, капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. La rivoluzione d'ottobre del 1917, la salita al potere di Vladimir Ilyich Ulyanov, meglio conosciuto con il soprannome di Lenin, e la caduta dell'impero e dei Romanov, travolgono totalmente la Russia e il suo popolo. Nulla è più come prima e nulla lo sarà mai più. La scuola imperiale del balletto viene smembrata perché è considerata un simbolo del regime zarista. I ballerini si ritrovano tutti senza lavoro e a questo si aggiunge la terribile situazione economica nella quale si ritrova il paese. Georgi Balanchivadze ha solo 13 anni, ma deve aiutare la famiglia. Le leggi marziali e le privazioni a cui è sottoposta la popolazione sono durissime e lui si scervella pensando a come fare. Per fortuna, il teatro, il cinema all'ora muto e i cabaret non vengono considerati alla stregua del balletto e il ragazzino mette a frutto le sue doti e le sue capacità artistiche. Trova lavoro come pianista in un cinema. Lavoro, si fa per dire. In realtà non lo pagano, gli danno da mangiare, ma per lui è già tantissimo. Avevo sempre una fame nera, non mi saziavo mai. Mi svegliavo la mattina e andavo a letto sempre con lo stesso pensiero. Cosa sarei riuscito a mandar giù quel giorno? Era veramente dura, ma io non potevo mollare. I miei stavano peggio di me. Per qualche annetto la mia vita fu quella. I grandi ballerini di San Pietroburgo non si danno per vinti e nel giro di alcuni anni riescono a riaprire la scuola di danza classica all'interno del conservatorio. Gheorghi si iscrive sia ai corsi di danza sia a pianoforte e si diploma con il massimo dei voti in entrambi. Mentre ritira i suoi certificati di fine anno accademico è felicissimo. Sa che con questi diplomi potrà entrare a far parte di qualche compagnia e magari andare all'estero, un sogno che ha da quando è piccolo. Quando gli propongono una tournée nell'Europa occidentale, il giovane danzatore non ha dubbi. Londra, Parigi, Berlino, Roma, le grandi capitali lo attendono e lui ha la valigia già pronta. Mentre si trova a Londra, Sergei Diaghilev, grande impresario russo fondatore dei Ballet Russe, lo vede danzare e lo nomina all'istante maître de ballet, permettendogli di firmare le sue prime coreografie e soprattutto di stabilirsi lì. Gli consiglia anche di cambiare nome perché quella sua origine georgiana ne rende difficile il ricordo. Nasce così Georg Balanchine. È quest'uomo nuovo che ascolta assorto una sera durante una festa un mecenate americano, Lincoln Kristein, parlare del suo sogno più grande: portare il balletto negli Stati Uniti. In quel preciso momento, il giovane ballerino decide che se qualcuno deve far conoscere il balletto classico nel nuovo mondo, quello sarà Georgi Balanchine. There's a new man in town, and he's not fooling around. There's a new man in town, and he's not fooling around. People listen up, there is something that you ought to know. Destini incrociati. A Destini Incrociati vi stiamo raccontando la storia di Georgi Balanchine, giovane ballerino appena approdato nella Grande Mela dalla Russia. Originario di San Pietroburgo, ha lasciato la madre patria per una serie di tournée in Europa e ha accolto la richiesta del magnate statunitense Lincoln Kristein, conosciuto a Londra, che gli trasmette il suo sogno, portare nel nuovo mondo il balletto classico, fondando una scuola tutta americana. Mia Slavenska, prima ballerina del Metropolitan Opera Ballet di New York, racconta così il suo primo incontro-scontro con il danzatore. Non avevo mai sentito parlare di Balanchine da quando ero arrivata in America. Mi fu detto che Balanchine mi aveva ordinato di essere pronta alle 9 del mattino in teatro. E io dissi: ah sì? E chi è questo Balanchine? Non l'ho mai sentito nominare. E non penso che sia un signore, perché io sono una donna e nessuno mi comanda di essere pronta alle 9 del mattino nel suo teatro. È meglio che gli diate questo mio messaggio. Questo fu il mio primo approccio con Balanchine, decisamente poco piacevole. Balanchine arriva a New York nel 1933. La città gli appare subito bellissima e affascinante. Su consiglio di alcuni amici, prende in affitto un piano dello stabile sito a 939 della 8th Avenue, vicinissima a Central Park, una zona dove sono già in molti i ballerini che hanno le loro sale prova. E ora sta proprio facendo il trasloco. Fra casse, scatoloni, attrezzi vari e specchi, decine di specchi, Georgi Balanchine vede comparire sulle scale un uomo con un fisico esagerato, sicuramente un ginnasta. Quell'uomo si chiama Joseph Pilates. Scoprii che al piano sopra il mio c'era una palestra, ma non una palestra qualsiasi. Pilates aveva inventato un metodo suo, la Contrology, che era una specie di via di mezzo fra lo yoga, le arti marziali e degli esercizi particolarissimi fatti con attrezzi che non avevo mai visto. Balanchine si interessa immediatamente alle tecniche di Mr. P, come molti suoi allievi chiamano Joseph Pilates. Tra l'altro si è fatto male a un ginocchio, in maniera anche piuttosto grave, e teme perfino di non poter più danzare come prima. Quando sente che Pilates ha aiutato tantissimi reduci della Grande Guerra a risollevarsi da ferite e traumi anche molto più gravi del suo, inizia a frequentare la palestra al piano di sopra. Mentre Balanchine sta compiendo alcuni esercizi che Pilates gli ha prescritto sul suo Universal Reformer, attrezzo ginnico inventato da lui stesso negli anni di prigionia, il danzatore ha un'intuizione. I suoi allievi devono svolgere serie infinite di esercizi di stretching, di riscaldamento, di allungamento dei muscoli, di irrobustimento generale della propria struttura. Forse la grande esperienza di Pilates può essere utile, anzi può perfino risultare determinante, come sta accadendo a lui stesso. Da quel momento in poi, il metodo Pilates diventa parte integrante del metodo Balanchine. Il grande ballerino russo Georgi Balanchine, stabilitosi a New York per portare negli Stati Uniti il grande balletto classico, mette a punto il suo metodo innovativo di danza, reso possibile da un allenamento intenso ma molto particolare che egli abbina alla scuola di danza, il metodo Pilates. Ideato e sviluppato da Joseph Pilates negli anni, questo metodo consente di impiegare i muscoli in maniera nuova. Oltre ad essere un programma di esercizi, è una disciplina di allenamento del corpo pensato e concepito per sviluppare la forza e la flessibilità muscolare, per aiutare a mantenere l'equilibrio tra corpo e mente e per assicurare l'esecuzione precisa dei movimenti. Gli allievi del ballerino divengono anche gli allievi del ginnasta e come chiamano l'uno Mr. P, imparano a chiamare l'altro Mr. B. Il metodo Balanchine si affina sempre di più e inizia a dare frutti insperati. I ballerini della sua scuola conquistano le scene d'America. Grandi danzatori come Violette Verdi, Mary Lashley, Patricia Neary, Giuliana, Nanette Glushak, Una Kai, Jacques d'Amboise e la meravigliosa Martha Graham affinano tutti la propria arte al 939 della 8th Street. La School of American Ballet diviene una delle accademie di danza più considerate al mondo e il metodo Balanchine il più insegnato, come racconta Patricia Neary. I never say I want that. Non dico mai ai miei allievi fai così. Dico sempre Mr. Balanchine vuole che tu lo faccia così. E non c'è altro modo, perché lui era il più grande. Sento molto la mancanza di quel periodo di rinascimento con Mr. B. E vorrei poter tornare indietro agli anni 60. Quando hai sperimentato cosa significhi ballare con Mr. B, non puoi più tornare indietro. Il metodo Pilates diventa a sua volta conosciutissimo. Se in un primo tempo attira solamente atleti e ballerini, lentamente conquista anche tutti coloro che amano stare in forma. Con i suoi caratteristici esercizi, rafforza gli addominali, conferisce pieno controllo del corpo, grande flessibilità, coordinazione della colonna vertebrale e degli arti, dona la potenza combinata tra corpo e mente. Eseguendo molti esercizi differenti per un basso numero di ripetizioni, i muscoli vengono rafforzati, allungati e tonificati senza l'aumento sproporzionato della massa muscolare. La totale concentrazione sul corpo durante ogni esercizio enfatizza la qualità del movimento, la coordinazione e il respiro, come sottolinea Nikki Noftz, istruttrice di Pilates. Il metodo Pilates consiste nella compenetrazione tra corpo, spirito e mente. Questo avviene grazie ad una terapia di movimento che bilancia tutti i muscoli del corpo, così che quando ti muovi, tutti i muscoli vengono usati contemporaneamente, piuttosto che in maniera singola. Pilates è un modo di vivere, è come ti muovi quando prendi in braccio tuo figlio, quando tiri giù qualcosa da uno scaffale, è come ti muovi, parli, ti siedi. Pilates è anche come affronti la vita e le sue difficoltà. È questo che sta pensando Joseph Pilates, appeso alle travi del soffitto della sua palestra, mentre un terribile incendio si sta diffondendo sempre più ai piani sottostanti. I vigili del fuoco intervengono prontamente. Sanno che all'interno si trova ancora una persona, un signore piuttosto anziano, è il famosissimo Joseph Pilates, incredibile atleta e inventore del metodo che porta il suo nome, nonché proprietario della palestra che si trova a uno dei piani intermedi dello stabile, sopra le aule della scuola di ballo di Georgi Balanchine, il grande ballerino russo. Il momento è sconvolgente. Tutti gli allievi della scuola di ballo si stringono intorno al loro maestro, Mr. B, e così fanno i numerosi atleti presenti nella palestra di Mr. P al momento dell'incendio. I loro ricordi sono concitati e confusi, ma raccontano tutti la stessa cosa. Quando si accorgono dell'incendio, del fumo che sale, il loro primo pensiero è quello di uscire, di scappare lontano. Ma Joseph Pilates decide di restare per salvare i suoi attrezzi, che cala in parte con l'aiuto di alcuni collaboratori lungo la scala antincendio esterna. Ma poi rientra e nessuno lo vede più. Ai vigili del fuoco che arrivano con gli idranti a placare le fiamme, si para davanti una scena apocalittica. Tra il fumo e le fiamme che hanno bruciato gran parte del pavimento, scorgono un uomo anziano appeso per le gambe e le braccia alla trave portante del soffitto. È Joseph Pilates, salvo e in piena forma. Poco movimento, ben programmato ed eseguito con precisione in una sequenza bilanciata, ha lo stesso valore di ore di contorsioni forzate e fatte in modo approssimativo. Così come il respiro anima la vita, il piede anima il corpo e non può fermarsi. Muoviamoci in armonia, come la mamma uccellino che scende sulle sue uova. Due frasi, la prima di Mr. P, la seconda di Mr. B. La somma delle loro rispettive filosofie di vita, ma che, avrete notato, possono facilmente essere interscambiate. La ginnastica nella danza, la danza nella ginnastica. Due metodi, Balanchine e Pilates, che hanno reso famosi i loro inventori, che si intersecano e si sviluppano reciprocamente, varcando i confini di una palestra e di una scuola di ballo per diventare patrimonio di tutti. Che sono, Gabi?